Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nessuno di noi può permettersi di prendersi il lusso di dire tranquilli, non c'è problema. Chi lo dice vive su Marte. Questo dice Renzi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel senso che il rischio c'è e questo ovviamente non lo può eliminare nessuno. Tanto è vero che piomba anche sulle partite di calcio, ovviamente a Parigi già c'era stato l'attentato, tra i vari attentati anche quello allo stadio, che però è riuscito in parte, così come era nelle intenzioni dei terroristi. Ma stasera ci sono varie partite e una è stata annullata, ne parleremo tra pochissimo, proprio per questo motivo, pare per un concreto allarme bomba. Quello che vi chiederò stasera, ci concentreremo naturalmente soprattutto sempre sul quello che è seguito agli attentati di Parigi, ci concentreremo anche molto su questo aspetto delle partite, parleremo della posizione anche dell'Italia nei confronti della guerra all'ISIS e a proposito di questo vorrei chiedervi, visto che la ministra della difesa Pinotti e anche Renzi oggi hanno detto insomma che non c'è intenzione di intervenire militarmente in Siria, ci sono state varie critiche, per esempio Forza Italia, voi che cosa ne pensate? Sareste favorevoli invece a intervenire militarmente, bombardando come fa la Francia, gli Stati Uniti in Siria, oppure ritenete che la posizione, così diciamo un passo indietro dell'Italia, sia in questo momento quella opportuna? Per i vostri messaggi, come sempre, 349-238-6666, che è il numero per gli sms, 349-238-6666, oppure come sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete mettere le vostre riflessioni giorno e notte. Approvate questa posizione del governo italiano oppure riterreste opportuno l'intervento militare in Siria? Voi continuate con le vostre riflessioni, vedo già qualcuna sulla pagina Facebook di Effetto Notte e adesso vi riassumo la giornata. L'allarme terrorismo ferma il calcio, ad Hannover cancellata la partita Germania-Olanda per una minaccia concreta, evacuato lo stadio, era prevista anche la presenza della Merkel, chiuse le stazioni metro del centro, in campo intanto Inghilterra-Francia allo stadio di Wembley blindato. Guerra all'ISIS, l'Unione Europea in aiuto alla Francia, Putin chiede una coalizione anti-ISIS come quella contro Hitler e in un video dell'ISIS invita a colpire anche il Colosseo, la ministra Pinotti esclude un intervento italiano in Siria. Le indagini dopo gli attentati, si cercano due terroristi in fuga, da oggi a Roma 700 soldati in più presidiata la metro. La legge di stabilità, la Commissione europea la promuove con riserva, giudizio rinviato alla prossima primavera, solidarietà alla Francia sui conti pubblici. L'omicidio del piccolo Loris, secondo l'ultima versione della madre davanti ai magistrati, sarebbe morto mentre giocava con le fascette elettriche che lo hanno strangolato. La scomparsa di Lenia Carrisi, nuova pista statunitense dopo la confessione di un camionista americano, ne parleremo qui a Effetto Notte. Cinema, Charlie Sheen rivela sono sieropositivo e sono stato ricattato sborsando milioni per far mantenere il segreto. Ja, genau. Und das sollte mal relativ flott jetzt gehen, eh? Quello che sentite era un tifoso che era andato allo stadio di Hannover per vedere la partita, si è ripreso mentre stavano evacuando lo stadio da un altoparlante, è arrivato l'invito a lasciare lo stadio con calma. Questo appunto perché, dicevo a proposito delle partite internazionali che si stanno giocando questa sera, ce n'è una che è quella che doveva giocarsi ad Hannover in Germania tra Germania e Olanda, che è stata sospesa per un allarme bomba. C'è Dario Ricci a aggiornarci su quello che sta succedendo a proposito di calcio. Dario. Sì, buonasera Roberta. Partita rinviata e il contesto che sta definendo la polizia di Hannover attraverso il suo capo Volker Kluve è davvero allarmante e drammatico. Pensate, la polizia ha avuto conferma di questo concreto tentativo di attentato dinamitardo di matrice islamica 15 minuti dopo l'apertura dei cancelli, quindi potete immaginare quanto possa essere stato difficile poter prendere in pochissimi istanti questa decisione e già fa sgombrare le persone che stavano affluendo allo stadio. Ebbene, gli indizi che stanno ricostruendo la polizia mentre in questo istante le agenzie battono questo lancio ad Hannover, evacuata anche una sala concerti per motivi di sicurezza, quindi lo scenario sempre in Germania, che va esattamente, sì, lo scenario che va a ricostruirsi sembra in queste prime fasi molto simile a quello della tragica serata di venerdì venerdì a Parigi. Ebbene, sembra dalle parole della polizia che l'idea era quella di innescare questo ordigno all'interno dello stadio. Come? Stanno ricostruendo questo scenario. Probabile che vi fosse un'ambulanza oppure un'auto del personale medico piena di esplosivo che doveva entrare nello stadio. Come sai, d'abitudine, chiaramente in questi grandi eventi, partite di calcio comprese, è necessario garantire un servizio medico adeguato per giocatori e spettatori, quindi c'è un personale medico dotato di tutto punto e ecco, sembra proprio che vi fosse o un'ambulanza, ancora da chiarire, o un'auto medica carica di esplosivo. La nazionale tedesca è stata portata immediatamente al sicuro, ricordiamo quella che era stata la serata anche della nazionale tedesca venerdì a Saint-Denis. I giocatori avevano trascorso la notte negli spogliatoi di Saint-Denis perché chiaramente diventava difficilissimo poter raggiungere il proprio albergo. La cancelliera Merkel è stata allontanata dall'area dello stadio mentre ancora stava arrivando allo stadio. In un primo momento si era diffusa la voce che la cancelliera fosse arrivata. Insieme a lei dovevano esserci diversi ministri del governo tedesco, chiaramente anche la ministra dello sport olandese Edith Schippers. Perché? Perché chiaramente c'era l'intenzione di non darla franca a quei terroristi che con la paura, ritirandosi, evitando di presenziare. Insomma, senti, invece c'è una partita che si sta giocando, no? Adesso. Sì, diciamo che tutt'altro scenario è quello che sempre in questa prospettiva arriva da Wembley, 70.000 e passa gli spettatori sugli spalti in Gran Bretagna, certo Londra, perdona non l'ho detto, ma Wembley è Londra, qualcuno potrebbe esattamente non sapere. C'è la Francia con l'Inghilterra. Inghilterra-Francia, chiaramente partita all'insegna della commemorazione di quanto avvenuto venerdì scorso a Parigi. Il principe William, i due CT Oxon e Deschamps hanno deposto le corone dei fiori, i giocatori hanno pregato nel minuto di silenzio, tutti raccolti al centro del campo, soprattutto punto più emozionante, momento più emozionante, tutto Wembley a cantare insieme la Marsigliese, il cui testo è stato proiettato sui che è anche molto molto bella, tra l'altro molto coinvolgente. Dario Ricci, allora, se non ci sono novità, speriamo appunto per quanto riguarda Hannover e le altre partite, ci sentiamo giusto per aggiornarci intanto sui risultati. Se l'Italia, insomma, ad hoc mi sembra che sta perdendo 1-0 con la Romania Bologna, ma fortunatamente in questo caso parliamo solo di calcio. Grazie Dario Ricci, a dopo allora in ogni caso per gli aggiornamenti. Oggi invece, ritornando appunto sulla Francia, il presidente francese Hollande ha incontrato il segretario di Stato americano Kerry per rafforzare un comune impegno nella lotta contro l'ISIS. Poi nei prossimi giorni Olanda vedrà il presidente americano Obama e poi il presidente russo Putin. Punti che ha chiesto a Stati Uniti, Europa e Medio Oriente di unirsi in una coalizione contro il terrorismo islamico, così dice, come fu quella contro Hitler. Intanto l'Unione Europea per la prima volta ha attivato la clausola di difesa collettiva chiesta ieri da Olanda. Poi ne parleremo in modo specifico anche di questo tema dopo. Le indagini dell'intelligence internazionale nel frattempo proseguono con Mohamed Adeslam, il fratello dell'uomo più ricercato di Francia, Salah Abdeslam. Islam, intervistato da una TV francese, ha detto: il meglio è che si arrenda, dice il fratello dell'uomo più ricercato di Francia, affinché la polizia possa fare piena luce su tutta questa storia. Ora sono ufficialmente almeno due i pezzi mancanti di Parigi e la caccia ai fuggitivi si allarga ancora in altri paesi tra finti allarmi e fermi poi non confermati. Sono direttamente le autorità francesi oggi a confermare che Salah Abdeslam non è l'unico terrorista ricercato, l'ottavo membro del comando, almeno un altro è tuttora in fuga e viene cercato in più paesi d'Europa con la fretta imposta da una domanda tuttora senza risposta: quali sono i loro piani? Le indiscrezioni degli ultimi spostamenti fanno infatti tremare i polsi. Il giorno dopo la strage, sabato, Salah Abdeslam sarebbe stato accompagnato nei pressi dello stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove si sarebbe dovuta giocare la partita Belgio-Spagna. Perché? E scappa insieme al secondo uomo? Domande a cui l'intelligence europea ancora non sa rispondere. Oggi la caccia all'uomo si era concentrata in Germania ad Alsdorf, dove erano state fermate 7 persone, comprese 2 donne, ma pochi istanti fa sono state tutte e 7 rilasciate. All'ottavo membro fuggitivo, a Salah Abdeslam, il fratello Mohamed lancia un appello e lo invita a consegnarsi alla polizia e fa sapere che lui e l'altro fratello, fattosi poi esplodere alla madre, avevano raccontato che andavano a sciare lo scorso weekend. Una finta normalità usata per coprire piani stragisti, in cui sarebbe coinvolto anche Fabien Klein, jihadista francese la cui voce è stata riconosciuta nei video dell'ISIS di rivendicazione. Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, di cui poi parleremo in modo approfondito, dice Renzi le sole armi non bastano, mentre prosegue il dibattito sulla sicurezza. E nel pomeriggio c'è stata un'informativa dei ministri Alfano e Gentiloni in Senato e così hanno parlato. Il ministro Alfano è tornato a parlare, a rassicurare insomma sul Giubileo. Noi abbiamo i militari che sono in campo e saranno utilizzati nel presidio di luoghi fisici e non nel girare per la città, cioè non vedremo camionette in giro in città di militari, perché il nostro scopo è quello di presidiare luoghi fissi, consentire alle forze di polizia che oggi al posto dei militari presidiano i luoghi fissi di poter andare in giro per la città, presidiarla meglio e dopodiché non militarizzare la città rendendola più sicura. Adesso spostiamoci sull'economia, che poi vedrete c'entra anche, sempre legata anche alla questione attentati di Parigi. Parliamo di legge di stabilità italiana che passa con riserva però questo primo esame della Commissione europea che avverte è a rischio di non conformità. Perché Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. Qui non è conforme, poi ci sono ancora critiche. Non è andata critiche. Tanto sì, bene. Sì. Non è andata tanto bene questo esame. Diciamo che questo ci è andato alla pagella e se fossimo a scuola potremmo dire che ci hanno rimandato a settembre. Ah, in realtà ci hanno rimandato a primavera, ad aprile, perché la Commissione europea vuole capire se noi da qui alla primavera manterremo davvero gli impegni che abbiamo preso con la legge di stabilità, e gli impegni riguardano due capitoli principalmente, quello degli investimenti, cioè ci siamo impegnati a fare una certa quantità abbastanza consistente di investimenti, 11,3 miliardi in parte destinati al mezzogiorno, al sud, e poi ci siamo impegnati a completare tutta una serie di riforme, diciamo principalmente quella del mercato del lavoro con il varo dei decreti attuativi del Jobs Act, quella della pubblica amministrazione che pure è stata approvata però deve essere attuata. Sappiamo che insomma in Italia noi abbiamo un po' questa tendenza a fare le leggi poi a dimenticare che le leggi hanno spesso bisogno di decreti attuazione. Ci sono privatizzazioni da completare, c'è la riforma delle banche, delle banche popolari, delle cooperative, c'è la riforma della giustizia che va portata in porto. Insomma, la Commissione dice va bene, noi possiamo anche darvi questi margini di flessibilità che insomma valgono diversi miliardi per la nostra legge di stabilità, se io ho fatto bene il calcolo 14, però dovete dimostrare che voi fate veramente gli investimenti e fate veramente le riforme. Questo è un po' il senso di quello che è successo oggi. Del giudizio. Poi aggiungo che il premier francese Valls ha annunciato che Parigi sarà costretta a non rispettare gli impegni di bilancio, dice dobbiamo dare tutti gli strumenti alla polizia. La Commissione europea si è mostrata insomma comprensiva, ha detto la sicurezza della Francia è la priorità sul bilancio, quindi pare che ci sarà una certa flessibilità. Grazie Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao. Per la cronaca invece, l'omicidio del piccolo Loris, secondo l'ultima versione della madre davanti ai magistrati, ha detto sarebbe morto mentre giocava con le fascette elettriche che lo hanno strangolato, poi lei si sarebbe spaventata e lo ha portato nel canalone poi dove è stato ritrovato. C'è anche un'altra notizia che riguarda la scomparsa di Ilenia Carrisi, vi ricordate, la figlia di Almano e Romina, scomparsa tanti anni fa, data per morta. C'è una nuova pista americana dopo la confessione di un camionista americano e di questo ci occuperemo più tardi qui a Effetto Notte. Per il cinema invece una notizia, una rivelazione, quella di Charlie Sheen, che ha detto di essere sieropositivo dopo aver rivelato la mia malattia. Sono stato ricattato, ha detto l'attore americano in un'intervista alla NBC. Ha raccontato in questa intervista che ha contratto il virus dell'HIV 4 anni fa. Parlo ora, dice, dopo milioni di dollari che ho speso per pagare queste persone che mi hanno ricattato per mantenere il segreto, ha detto ancora l'attore. Erano persone di cui mi fidavo, mi sono sentito tradito. La domanda se stia ancora pagando, Sheen ha risposto non dopo oggi. prima di lasciarci, sapete che ci sono sempre gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, volevo cominciare a leggere qualche vostro messaggio al 349-238-6666, così alla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito del possibile intervento o no. Allora, l'Italia, per il momento il governo italiano ha detto: noi non interveniamo in Siria militarmente, voi che cosa ne pensate? Approvate questa scelta? Bombardare, ma chi, scrive un ascoltatore, nei bombardamenti si colpiscono anche persone che poco o nulla hanno a che fare con i terroristi, quello che è successo è un fallimento delle agenzie di spionaggio, ma soprattutto è dovuto alla mancanza in Europa di un'agenzia federale come l'FBI negli Stati Uniti, anche se anche lì poi ci sono stati gli attentati dell'11 settembre, può darsi che siano migliorati. Poi Alessandro, Ale, anzi potrebbe essere una donna, proverei un intervento armato in Siria, mi sembra inevitabile, non si vuole un crescendo di gravità e contare su altri massacri. Lidia scrive: hanno ragione Renzi e Pinotti, spero che gli Stati Uniti non facciano più pasticci in Medio Oriente sulla scia di Persia e Gheddafi. Elena da Roma: interverrei non inviando più armi ai russi, francesi, americani e altri, bombarderei il deposito degli armamenti dell'ISIS. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Mentre continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349-238-6666 sull'approvare o meno da parte vostra la decisione dell'Italia per il momento di non intervenire militarmente in Siria, per esempio Floriano dice: è giusto collaborare, ma se l'Europa non prende una decisione comune è giusto così. Poi sappiamo bene che meglio della guerra sarebbe convincere chi fornisce armi e mezzi di desistere, compreso il petrolio sotto banco, dice. Le notizie più importanti. Avete sentito all'inizio, l'allarme bomba ad Hannover in Germania, è stata quindi cancellata la partita Germania-Olanda con la minaccia di un attentato dinamitardo di matrice islamica. C'è allarme in tutta Hannover, è stata evacuata anche una sala concerti. Poi Mosca che raddoppia i raid in Siria anti-ISIS, Putin che chiede alla comunità internazionale una coalizione anti-ISIS come fu quella contro Hitler. Poi c'è il sì di unanime dell'Unione Europea all'assistenza militare alla Francia. Renzi dice: contro i terroristi non bastano le azioni militari, e la ministra Pinotti esclude un intervento in Siria, dice: rafforziamo piuttosto la nostra presenza in Iraq. Un secondo terrorista in fuga, continuano le indagini dopo gli attentati di Parigi. Anonymous, il gruppo di hackers che oscura migliaia di account dell'ISIS per in qualche modo dare un suo contributo anti-ISIS. Poi la legge di stabilità, ne abbiamo appena parlato, c'è una promozione con riserva da parte dell'Unione Europea. Novità sulla scomparsa di Lenia Carrisi: viene prelevato il DNA ad Albano, c'è una nuova pista americana dopo la confessione di un camionista. E poi l'attore hollywoodiano Charlie Sheen che rivela: sono sieropositivo, mi ricattavano. Cominciare, colleghiamoci subito con Parigi. Sapete che oggi l'Unione Europea, poi ne parleremo in modo più approfondito, in modo unanime ha detto: saremo in aiuto della Francia, ci sarà un'assistenza militare qualora ci fosse bisogno. Poi c'è stata anche la visita del segretario di Stato americano Kerry, che ha detto di aver discusso con Hollande di significativi passi, ha detto, da compiere per espandere la lotta all'ISIS. Ma su questo fronte ci spostiamo poi dopo. Invece adesso con il nostro Gigi Donelli, che sempre a Parigi la sta lasciando, la capitale francese. Ciao Gigi. Ciao Roberto, buonasera. Volevo invece parlare ancora della vita lì nella capitale francese. Ieri ci dicevi che erano tornati tutti giustamente a vivere, a riempire i locali, solo che bastava un minimo rumore, lo scoppiettio di una marmitta, di una moto, per fare sobbalzare le persone, tanto lo stato di tensione. Oggi il primo ministro francese Valls ha detto che altri attentati sono senza dubbio in preparazione, che ovviamente non è rassicurante per la popolazione. Poi ho saputo che la Tour Eiffel, che era stata riaperta ieri pomeriggio, poi di nuovo chiusa perché hanno detto ci sono condizioni di sicurezza non sufficienti. Tu adesso sei in aeroporto, hai preso i mezzi di trasporto, la situazione oggi qual è, Gigi, di Parigi? Ma dunque, la situazione da questo punto di vista non è cambiata in maniera significativa, è una città che, come ho detto più volte, si è rimessa in movimento, ma chiaramente è una città spaventata. Beh, ogni volta è opportuno ricordare le dimensioni, e questo riguarda naturalmente anche questo aeroporto. Charles de Gaulle non è un aeroporto qualsiasi, stiamo parlando del secondo aeroporto d'Europa per traffico, stiamo parlando del secondo aeroporto al mondo per traffico di turisti. Allora, già queste due cose potrebbero bastare, come dire, a mettere il terrore a chi si deve occupare della sicurezza di questo posto. Pensa che qui lavorano 85.000 persone tutti i giorni. Tantissimo. Quindi insomma, stiamo parlando di una città nella città che ovviamente è un bersaglio, perché purtroppo nella storia del terrorismo internazionale e non solo di quello dell'ISIS, ma appunto di quello storico. Gli aeroporti sono per definizione luoghi sensibili. Aeroporto e l'area, dunque tu dicevi giustamente, io sono arrivato qui con quello che è il percorso credo standard per milioni di turisti e francesi, che consiste dal centro nella metropolitana numero 5, poi si cambia la Gare du Nord, altra zona calda e sotto controllo, si prende quello che è la RER, cioè i treni regionali, e in un totale di 50 minuti e 10 euro il biglietto si arriva qui a Charles de Gaulle. Bene, pensa che tutta la rete appunto dei trasporti, ma solo della metropolitana RER, qui nell'Île-de-France muove 5 milioni di persone al giorno. E ci hai dato la dimensione, le persone come si comportano? E poi lì ci hai visto soldati, paracadutisti, forze dell'ordine? Qui ci sono esattamente come sono stanziati qui da alcuni giorni i berretti amaranto e i paracadutisti. Non immaginarti una situazione di militari ovunque. Sono soprattutto gli ingressi, la sensazione è che ci sia anche un forte significato simbolico in questa loro presenza, non che per carità non si rappresentino poi, come dire, un punto di reazione, sono armati e sono pienamente operativi. Quello che voglio intendere è che in un sistema di sicurezza che prevede già normalmente 1000 operativi ogni giorno per il controllo della sicurezza, e non parlo dei controlli delle valigie che è tutto un altro discorso, non si può appunto, è stato detto più volte in questi giorni, pensare che ciascun passeggero, ciascuna persona abbia un poliziotto che lo controlla. I numeri, li abbiamo detto, sono ben superiori alle 300.000 persone al giorno in movimento solo da questo aeroporto. Quindi sì, presenza, ma devo dire non assillante. Si avverte più magari negli sguardi delle persone, c'è comunque un fondo di tristezza che rimane in queste ore sulla città e dunque anche sull'aeroporto. La situazione per il momento e questa ti lasciamo partire allora, Gigi. Grazie. Ciao, buon viaggio. Ciao Gigi. Ciao Roberto, ciao. Buonasera. Scrive un ascoltatore: no all'Italia coinvolta in Siria, stop alla vendita di armi, stop ai finanziamenti, chiudere le frontiere, ripristinare l'esercito e le forze dell'ordine, chiede qualcuno. Intervenire in Siria solo se d'accordo con il legittimo governo e coordinando l'intervento coi russi, scrive Emanuele. Intanto voi state scrivendo sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 a proposito dell'intervenire o meno in Siria. Oggi comunque la ministra Pinotti della difesa ha assicurato che per il momento non c'è nessuna intenzione da parte dell'Italia di intervenire militarmente. Vedo un'agenzia di pochi istanti fa, a Parigi è stato trovato il telefonino del kamikaze con scritto ok siamo pronti. Questa è una notizia della CNN. Gli uomini che indagano sugli attacchi di Parigi avrebbero trovato in uno dei luoghi degli attentati il telefonino di uno dei kamikaze, lo riferisce la CNN citando fonti investigative francesi. Sul display un SMS con la frase ok siamo pronti. Saluto Andrea Margelletti. Ciao Andrea. Buonasera a voi dalla notte di Islamabad. Sei in Pakistan, quindi presidente del CESI, il Centro Sud Internazionale. Andrea, Hollande oggi ha detto che il 24 novembre sarà da Obama, il 26 novembre da Putin, per cercare appunto una linea convergente nella guerra anti-ISIS, per rafforzare la guerra contro la piaga del terrorismo. E tra l'altro la Russia ha chiesto una coalizione anti-ISIS all'Europa, agli Stati Uniti e al Medio Oriente, come fu quella contro Hitler. Intanto ha rafforzato i bombardamenti, ci sono anche 25 bombardieri della Russia che colpiscono l'ISIS in Siria. E a proposito dell'aereo caduto in Sinai, Mosca oggi ha detto che è un atto, ha confermato che è un atto terroristico, è stato trovato dell'esplosivo e ha ordinato ai suoi 007 Putin di eliminare i colpevoli, come si vede nei film di spionaggio, nei film di guerra, no? Senza tanti giri di parole, se li trovate eliminate, li dice, in base all'articolo 51 ONU sull'autodifesa. Poi parleremo della posizione italiana, ma in questo momento, Andrea Margelletti, chi è che veramente sta combattendo l'ISIS? Direi poco tutti, si potrebbe fare infinitamente di più, ma non c'è un punto di coesione politica. Immaginare che l'ISIS venga sconfitto da qualche bomba dall'altro, qualche missile cruise, è una mera ingenuità, ma lo sanno tutti, non vi sto dicendo nulla che chi deve prendere le decisioni non sappia. Senti, ma c'è comunque, da quando è intervenuta la Russia, è vero che all'inizio c'erano questi sospetti, magari comunque proseguono, del suo sostegno ad Assad, il dittatore siriano, che fosse più un aiuto per Assad che non davvero una guerra contro i terroristi islamici, l'intervento della Russia, però mi pare che da un po' di tempo la si stia elogiando come la nazione che a un certo punto ha preso la faccenda in mano e ha deciso di intervenire col pugno duro, è così? Perlomeno in Siria, ma d'altronde gli occidentali in Siria non hanno intelligence sul terreno, quindi oggettivamente i russi sono molto più facilitati, non è soltanto una questione di volontà politica ma anche di dati oggettivi, però i russi non fanno nulla in Iraq, che è l'altra metà del problema, quindi non bisogna vedere soltanto tutto dal prisma siriano o dal prisma iracheno. Il problema dell'ISIS è un problema molto ampio che ha propaggini in tante parti del mondo, tra le quali anche naturalmente la Libia, che per noi è molto importante. Senti, comunque si continua a parlare da tanto tempo dell'ambiguità della comunità occidentale, no? E anche poi c'è l'Arabia Saudita, non soltanto l'Occidente, gli Stati Uniti sempre un po' tiepidi, nel senso che già da tempo si sarebbe potuti intervenire per fermare, per arginare l'ISIS. E che cosa c'è sotto, una sottovalutazione, oppure bisogna pensare agli intrecci e ai complotti più oscuri? Siano intrecci complessi, è un dato di fatto che molte nazioni sunnite abbiano voluto ballare col diavolo, non immaginando che in realtà è il diavolo che balla con te, anche questo è un dato di fatto. Dall'altra parte agli europei piace tantissimo che gli americani intervengano per sistemare le cose che dovrebbero sistemare loro, questa è la vicenda. Sentiamo che cosa ha detto, un passaggio di quello che ha detto Renzi oggi. L'Italia è in tante partite, però lo fa senza dichiarazioni roboanti. Noi abbiamo bisogno di un atteggiamento tipico del nostro paese, che è quello che si sarebbe detto più di soft power che non di hard power. Quindi soft power, nel senso non ci sbilanciamo troppo. E sentiamo anche il passaggio della ministra della difesa Pinotti. Escludo un intervento in Siria e non escludo il rafforzamento dell'intervento in Iraq, nel senso che noi stiamo rafforzando il nostro intervento in Iraq. Eravamo già uno dei contingenti più numerosi, ora lo aumentiamo ulteriormente. Quindi, secondo te, Andrea Margelletti, è giusta la posizione dell'Italia ed è forse per questo, dico forse, che finora siamo rimasti abbastanza al di fuori delle mire degli attentatori, non lo so, magari invece è stato sventato qualcosa senza che lo sapessimo. No, per favore, se iniziamo a far passare il messaggio che non intervenire militarmente, cioè in maniera operativa, bombardando, dando la caccia ai terroristi uomini sul terreno, ti mette al riparo da attentati, è un disastro. Ti prego. No, questa era una domanda che molti si fanno, perché, in questo senso. Io rispondo che nei confronti del terrorismo non ci possono essere soluzioni immediate, perché questi sono entrati in un teatro, hanno preso ostaggio centinaia di persone non per negoziare delle richieste, ma per ammazzare della povera gente come animali al macello. Secondo te quindi che cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare l'Italia? Allora, queste sono posizioni che vanno al di sopra il mio livello di stipendio. Io mi rendo conto, io ho però la sensazione molto forte che noi ci rendiamo conto che viviamo in una situazione che è completamente cambiata e che quelli che di fronte a noi, cittadini europei che vanno ad addestrarsi, tornano per massacrare altri cittadini europei, se ne strafregano del soft power o dell'hard power. O noi giochiamo una partita estremamente decisa nelle coalizioni internazionali contro il terrorismo, o siamo a rischio tanto quanto gli altri, ma pesando di meno. Quindi dovremmo intervenire militarmente, insomma, in qualche modo questa è la tua posizione. Non noi. E allora, se qualcuno pensa che l'ISIS che domina metà dell'Iraq e metà della Siria possa essere sconfitto senza intervento da terra, e né i curdi, né l'esercito iracheno, né l'esercito siriano sono minimamente in grado, almeno per qualche anno, di farlo, ecco, quindi lo deve fare qualcun altro. Poi se scegliamo di non farlo, naturalmente ne vedremo le conseguenze. Non è una questione di Italia con quattro aerei o quanto altro. Io sto parlando di una cosa infinitamente più grande che non avverrà mai, perché l'Europa non è assolutamente né unita né solidale. Basta vedere la vicenda dei migranti, dove l'Italia è stata lasciata sola per anni. Figuriamoci se trovano un punto comune d'accordo per mandare a combattere 150.000 uomini in Iraq. È stato chiarissimo. Andrea Margelletti, presidente del CESI, ti saluto da Islamabad. Ciao Andrea. Grazie a voi, a presto. Buona continuazione, che lì tra l'altro è notte fonda. Voi continuate con i vostri messaggi su quello di cui stavamo parlando con Andrea Margelletti, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note, gli sms al 349-238-6666. Ci ritroviamo tra poco perché abbiamo tante altre cose da raccontare. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Voi continuate con le vostre riflessioni, con i messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito della posizione dell'Italia, il governo ufficialmente dice noi non interveniamo in Siria, qualcuno dice bisognerebbe invece intervenire. Avete sentito prima Andrea Margelletti, esperto di difesa e strategie militari. Vittoria scrive: vogliamo smettere di fare Ponzio Pilato di questa drammatica situazione ed essere solidali con la Francia, non solo con le manifestazioni ma con i fatti. A proposito di fatti, stasera la notizia grossa che è piombata, diciamo, nel flusso dell'informazione e non solo in serata, è stata quella dell'allarme bomba ad Hannover, dove doveva partire la partita tra Germania e Olanda, che è stata sospesa, è stato evacuato lo stadio. Adesso sembra che l'allarme riguardi un po' tutta la città tedesca e che sia arrivato, dicono le forze di polizia, da servizi segreti di un altro paese, come Dario Ricci confermi. Dario, sì, per carità, mi dai una responsabilità che ahimè non ho, posso confermare appunto quanto hanno detto le autorità tedesche. Invece nella conferenza stampa che si sta svolgendo in questo istante, sarebbe stato un servizio segreto di un paese straniero appunto a segnalare questo allarme. Ricordiamo quanto accaduto, era in programma Germania-Olanda, partita che di fatto non si è disputata perché la polizia ha avuto evidenze concrete di questo rischio attentato dinamitardo di matrice islamica 15 minuti dopo aver aperto i cancelli dello stadio di Hannover, da lì l'evacuazione dell'impianto. E anche in questi minuti ancora continua l'allarme, perché è stata evacuata anche la TUI Arena di Hannover, che è una sala concerti dove era in programma appunto il concerto di una band, credo locale, le Soheim Mannheim, ed è stata evacuata anche una stazione della città perché è stato ritrovato un pacco, un oggetto sospetto. Quindi sembra riprodursi, come già avevamo detto, Roberta, la dinamica dei fatti di venerdì. Esattamente. Come Parigi. Senti, c'è una dichiarazione adesso, sempre in conferenza stampa, del ministro dell'interno Thomas de Maizière, che dice, tedesco, e dice: le indicazioni sono diventate sempre più numerose poco prima della partita, inducendomi a consigliare di annullarla. Nel dubbio per la sicurezza dei cittadini, ha detto, la situazione è seria, ve l'ho già detto. Conferma appunto che insomma l'allarme è serio e concreto. Eh sì, assolutamente, anche perché puoi immaginare praticamente a mezz'ora dal fischio d'inizio, con le squadre già nell'impianto, chiaramente con la cancelliera Merkel che stava arrivando. Senti, sentiamo Giorgia Scaturro, la nostra Giorgia Scaturro da Londra. Ciao Giorgia, dove invece si sta giocando Inghilterra-Francia. Ciao Giorgia. Per ora la partita. Pronto? Sì, la partita per ora qui si sta disputando, è cominciata regolarmente alle 8 e al momento ci sono state tantissime commozioni, lo stadio è gremito, quindi moltissime persone e per fortuna nessuno esplosivo, nessuna tragedia in corso. Senti, dicevi tra l'altro che oggi che i biglietti sono stati venduti in grande quantità, anzi che proprio sono esauriti, quindi c'è stata questa reazione da parte dei britannici, probabilmente anche da tifosi francesi che sono arrivati lì a Londra. Sì. Ma si contano erano circa 1700 tifosi francesi. All'indomani dalla tragedia di Parigi pare ci siano stati un centinaio di rimborsi dei biglietti, che poi sono stati subito ripresi nelle ultime 48 ore da 10.000 biglietti che sono stati venduti fino alle 3 del pomeriggio di oggi, quando ufficialmente la vendita dei biglietti è stata sospesa. Lo stadio da 90.000 posti è praticamente pieno e non era possibile comprarlo oggi, ma è stato fatto un grande lavoro di unità e di rassicurazione durante questi ultimi giorni. Grazie. Questo anche perché sì, stavi dicendo, saprete, scusa Giorgia. È stato dispiegato il maggior contingente mai visto ad un evento sportivo. Questo è stato annunciato in grande pompa negli ultimi giorni, quindi per demonizzare un po' la paura degli attentati terroristici e spingere invece sull'unità, sulla forza, sull'andare avanti. Grazie Giorgia Scaturro, e questa appunto è stata la reazione alla partita. Ecco, vuoi aggiornarci sul risultato? Beh, vale la pena, visto grazie che Giorgia. Finalmente di calcio un attimo parliamo. L'Inghilterra è anche in vantaggio per 1-0. Insomma. Sulla Francia, vuoi aggiornarci anche sull'Italia con la Romania? Ma sì, Romania che è in vantaggio a Bologna per 1-0 sugli azzurri con la rete di Stanco al 7° minuto. Importanti anche le sfide di qualificazione Euro 2016, si scelgono oggi le ultime due squadre. Ebbene, la Svezia con una rete di Ibrahimovic è in vantaggio a Copenaghen sulla Danimarca per 1-0 e in questo caso sarebbe qualificata. 1-0 anche della Slovenia sull'Ucraina a Maribor, ancora in vantaggio di fatto nel doppio confronti però gli ucraini, che avevano vinto 2-0 all'andata. Grazie da Lurici, sperando che non ci siano ulteriori sviluppi ad Hannover. Speriamo questa sera di non vederci più. Ecco, spero di non vederti più, Dario, nonostante il piacere, vero, che provo nel vederti. Ciao Dario, intanto c'è la via. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ma anche i vostri messaggi in questi 60 minuti, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Rosanna scrive: l'Italia ripudia la guerra, se manteniamo questo forse ci salveremo un po', ma nessuno più si sentirà sicuro dopo tutto quello che è successo. E cosa è successo? Tra l'altro stasera, tra le notizie più importanti, questo allarme bomba ad Hannover in Germania, dove doveva essere giocata la partita Germania-Olanda, che è stata cancellata. La minaccia riguarda un po' tutta la città, in vari punti della città continua l'allarme. Adesso una notizia di poco fa, ecco, adesso invece il concerto alla TUI Arena si tiene, era stata evacuata questo spazio per la musica da Hannover, invece adesso il concerto è stato ripristinato, questo è un buon segno. Poi Mosca che raddoppia i raid in Siria, Putin che chiede una coalizione internazionale contro l'ISIS come fu contro Hitler, e Renzi che dice contro i terroristi non bastano le azioni militari, e la ministra Pinotti esclude un intervento in Siria, dice piuttosto rafforziamo la nostra presenza in Iraq. Europa 24 notte. E anche nello spazio europeo continuiamo su quello che sta succedendo dopo gli attentati di Parigi. I ministri della difesa dell'Unione Europea hanno deciso oggi a Bruxelles all'unanimità che gli aiuti saranno su base bilaterale, gli aiuti politico-militari alla Francia, non con una missione di difesa e sicurezza dell'Unione Europea che comunque avrà il coordinamento. Anna Marino ha chiesto che cosa prevede questa clausola di solidarietà del trattato europeo a cui la Francia si è appellata. L'ha chiesto ad Andrea Santini, professore di diritto europeo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'Europa è unita e chiede alla comunità internazionale e ai nostri vicini del mondo arabo di mostrare la stessa determinazione. Oggi la Francia ha chiesto assistenza e aiuto all'Europa e l'Europa tutta ha risposto sì. Queste sono le parole dell'alto rappresentante Federica Mogherini, che ha annunciato la risposta positiva dell'Europa quando era ancora in corso il Consiglio di Difesa. I ministri della difesa dell'Unione Europea lo hanno deciso a Bruxelles e si sono richiamati all'articolo 42.7 del Trattato dell'Unione, che viene applicato per la prima volta. Cosa prevede questo articolo? L'articolo 42, paragrafo 7 del Trattato sull'Unione Europea prevede che qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri debbano prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite è la disposizione della Carta che prevede il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite. Queste disposizioni quindi si rifanno essenzialmente al concetto di legittima difesa collettiva, all'obbligo, perché in questi termini viene formulato nel paragrafo 7 dell'articolo 42 del Trattato europeo, degli Stati sostenere uno di loro quando quest'ultimo sia oggetto di un'aggressione armata. L'aspetto forse più problematico di queste disposizioni, almeno tradizionalmente, è il riferimento all'aggressione armata. un concetto questo che non è definito né nella Carta delle Nazioni Unite né nel Trattato sull'Unione Europea e che originariamente è stato concepito soprattutto con riferimento a guerre di tipo tradizionale, ma soprattutto dopo l'11 settembre, dopo gli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle, si è diffusa l'opinione che un'aggressione armata possa essere rappresentata anche da attentati terroristici, soprattutto quando queste abbiano dimensioni come quelle appunto dell'11 settembre o del più recente attentato terroristico a Parigi. Secondo l'alto rappresentante Mogherini, non sarà una missione dell'Unione Europea, ma l'Europa ne avrà comunque il coordinamento e in ogni caso spetterà ad accordi bilaterali. E inoltre non è necessario più nessun'altra formalità finché si applichi questo 42 paragrafo 7. Così. Queste dichiarazioni di Federica Mogherini non stupiscono se si pensa al contesto nel quale si inserisce l'articolo 42 paragrafo 7. Il contesto è quello di una politica di sicurezza e di difesa comune a livello europeo che è ancora essenzialmente embrionale e fondamentalmente intergovernativa, quindi una politica che è da ricondurre essenzialmente alla volontà dei singoli Stati membri. In questo contesto quindi sarà essenzialmente quello che gli Stati membri decideranno a determinare che cosa verrà fatto e il ruolo dell'Unione Europea non può effettivamente essere altro che un ruolo di mero coordinamento. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso nel tempo che rimane, velocemente cambiamo per almeno un pochino l'argomento, parliamo della scomparsa di Ilenia Carrisi, figlia di Albano e Romina, che proprio per la sua scomparsa anni fa videro crollare insomma il loro rapporto di una vita. Ne parliamo di queste novità che arrivano dall'America con Francesca Cuomo, che è cronista del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Francesca. Ciao, buonasera a tutti voi. Senti, ricordiamo che Ilenia era scomparsa il 31 dicembre 1993 mentre aveva deciso di fare un giro del mondo in solitaria, da sola, e poi da quella data non si è più saputo nulla di lei. Cosa arriva dagli Stati Uniti? Beh, dagli Stati Uniti ci sono delle notizie che insomma a seconda delle inclinazioni possiamo definire positive o negative. Sappiamo che la famiglia Carrisi, sia Albano che Romina Power, da questo punto di vista sono sempre stati molto divisi. Romina si è sempre insomma dichiarata speranzosa che la figlia fosse ancora che la figlia fosse ancora viva, mentre invece Albano appena due anni fa aveva già avviato l'istanza che poi il tribunale aveva concluso appena pochi mesi fa per dichiararne invece la presunta morte. A questo punto noi sappiamo con certezza che 15 giorni fa i carabinieri di Brindisi sono andati a Tenuta Moreno e a Tenuta Carrisi ad Albano e hanno prelevato a lui e ai suoi figli il DNA. In questo caso ovviamente loro hanno dovuto spiegare che andava confrontato con quello di un cadavere, dei resti, ormai davvero pochi resti, di una donna che per tante caratteristiche potrebbe essere la figlia. E che è stata ritrovata negli Stati Uniti dopo la confessione di un serial killer, di un camionista che era dentro. Questo serial killer, esatto, era in carcere. Kate Hunter Jesperson in realtà ha dichiarato di aver ucciso diverse donne, Stati Uniti, no? E soprattutto nella zona, come? Diverse donne, no? Non solo una. 160, lui dichiara di averne strangolate 160, in realtà però in base alle indicazioni che lui ha fornito sono stati ritrovati soltanto 8 corpi. Tra questi c'è quello forse di Ilenia Carrisi. In particolare diciamo, ciò che lo ha legato e che poi ha fatto decidere di eseguire l'esame del DNA sono alcune caratteristiche che hanno in comune le ragazze, sia in base alla descrizione dello stesso Jesperson, sia in base a quelli che sono insomma dei dati oggettivi. L'età della donna ritrovata circa quella di Ilenia, che è scomparsa a 24 anni. L'uomo ha dichiarato che la ragazza è salita nel suo camion in una stazione di servizio di Tampa, e anche questo può coincidere con uno zainetto, capelli biondi, e si faceva chiamare Suzanne, che è esattamente il nome che utilizzava Ilenia quando stava a New Orleans. Capiremo nei prossimi giorni. Questo, Francesca, ci dobbiamo scusami, sì, Francesca, ci dobbiamo lasciare. Ci vedremo nei prossimi giorni. È stata una serata intensa, vediamo se questi sviluppi vanno nella direzione giusta. Grazie Francesca, noi ci risentiamo alle 22.